Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia di Filippo Astone. Buongiorno, Fabbrica 2.4, questa volta puntata dedicata al mercato dell'auto e soprattutto a come sta cambiando la manifattura automobilistica in Italia e nel mondo. Nostro ospite è Stefano Aversa, Vice President a livello mondiale di Alix Partners, che è una delle maggiori società di consulenza strategica. Buongiorno, dottor Aversa. Buongiorno a tutti voi. Come sta cambiando il mercato dell'auto in questa fase della storia? È un mercato che si è ripreso dal periodo, diciamo, nero del post 2007, ha toccato un picco nel 2007, ha ripreso, trainato essenzialmente negli ultimi 7 anni dalla Cina, in cui circa 15 milioni di crescita nel mondo sono state dovute alla Cina sui 16 totali della crescita mondiale delle vendite, mentre i prossimi 7 anni sicuramente la Cina continua a essere importante, ma molto meno. La Cina si è sicuramente normalizzata dal punto di vista dell'economia e anche l'auto ne risente. Ci sono stati per la prima volta negli ultimi 3 mesi dei segni negativi nella crescita e ci aspettiamo che comunque rappresenti circa il 50%. Alla fine, diciamo, di questa decade, nel 2020, si dovrebbe toccare i 100 milioni di auto venduti nel mondo dai circa 86 milioni dell'anno scorso, e quindi una crescita ancora importante, con circa il 50% saranno in Cina. Insomma, il mercato dell'auto crescerà soprattutto in Cina. Ma le fabbriche di auto, la manifattura automobilistica, come cambierà? La manifattura non dovrebbe cambiare in maniera pesante. Devo dire che l'industria, nonostante anche le previsioni di molti, incluse quelle del sottoscritto, di vedere magari alcuni fenomeni che abbiamo visto nell'industria, come l'industria elettronica, di forte outsourcing, non sono avvenuti nell'auto. I produttori continuano a essere produttori dell'auto in totale, dal punto di vista, dico, dell'assemblaggio, la saldatura, l'assemblaggio, la verniciatura. Quello che cambierà è che le auto continueranno a cambiare, e nel lungo termine ci saranno anche nuove tecnologie produttive. Quindi è chiaro che se l'auto elettrica, che oggi rappresenta una parte limitatissima delle vendite, stiamo parlando di circa l'1%, crescerà come si vede in maniera sensibile, ma stiamo parlando degli anni, diciamo, 2020 in poi, l'auto elettrica si produce in maniera abbastanza diversa, quindi certamente la parte della produzione dei motori scomparirà. Ecco, eppure c'è questo trend dell'Industry 4.0, che poi in pratica vuol dire mettere un chip su ogni macchinario produttivo e anche su ogni componente, su ogni singolo pezzo, e un'interconnessione globale. Ecco, questo trend cambia tutta la manifattura, dovrebbe cambiare anche quella automobilistica. Ma non solo, direi che l'auto in questo sarà pionieristica, come lo è stato da sempre nella manifattura discreta. L'auto ha da sempre fatto scuole, continuerà a farlo anche in questo trend dell'intelligenza e della digitalizzazione. Però questo non cambierà totalmente il modo di produrre, cambierà il modo di gestire la produzione. E diciamo che su questo si fa anche forse un po' di confusione. E quindi ci aspettiamo che ci saranno le cosiddette Internet of Things, quindi ogni singolo sensore sulle macchine sarà collegato, ci saranno degli standard di comunicazione, ci sarà una maggior facilità di riassetto della produzione per arrivare al famoso e fatidico lotto 1, per cui ogni auto personalizzata per chi l'ha chiesta può essere prodotta in maniera economica, perché la flessibilità sarà praticamente totale. Totale, esatto. Ecco, ci interrompiamo per una pausa pubblicitaria, restate con noi. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta... Fabbrica 2.4. Buongiorno, rieccoci con Stefano Aversa, con il quale stavamo parlando di fabbrica di auto, di come cambierà e di quali tecnologie. Allora, stavamo dicendo, con l'Industry 4.0 si arriverà a una flessibilità totale fino a far sì che ogni singolo utente potrà avere l'auto disegnata su misura. E questo per la fabbrica, per lo stabilimento produttivo, che cosa comporterà? Comporterà uno stabilimento produttivo che sarà fortemente automatizzato, con una grande intensità di elettronica, di sensoristica e di intelligenza, anche intelligenza artificiale, quindi con potenziale anche autoapprendimento, con un grande numero di robot. Se oggi guardiamo il settore, ci sono in Germania 273 robot per mille impiegati, quindi siamo già molto elevato. Questo andrà a crescere ulteriormente. Qualcuno ha detto che in questa fabbrica ci saranno solo due impiegati, un uomo e un cane. Il compito dell'uomo sarà quello di dare da mangiare al cane, quello del cane di evitare che l'uomo tocchi qualunque cosa, perché sarà autoregolata. È chiaro che è un paradosso. Un paradosso, ma questo è quello, diciamo, che a cui si tende in modo teorico. Mi aspetto che tra qui ed allora ci saranno, siamo molto lontani da questa perfezione, e questo ecosistema digitale che sarà la fabbrica sarà ancora molto molto imperfetto per i prossimi almeno 20 anni. Ecco, voi avete inventato un acronimo che si chiama CASE e che indica l'auto del futuro. Che cosa significa? Significa che l'auto del futuro, al di là di essere un'auto che deve consumare meno, che è uno dei trend che continuerà, avrà quattro grandi filoni portanti. Uno sarà un'auto connessa, due sarà un'auto potenzialmente a guida autonoma, tre sarà un'auto condivisa con altri e quattro sarà un'auto elettrica o elettrificata. Elettrica o elettrificata, quindi elettrica o ibrida. Elettrica o ibrida, e nel mondo dell'elettrico ci sono tutte le, diciamo, sfumature. Si va dall'auto che è un cosiddetto plug-in hybrid, quindi un ibrido comunque con una capacità di batteria che permette di fare alcune decine di chilometri, all'auto elettrica pura, fino all'auto a celle a combustibile, che sicuramente risolverebbe il problema dell'autonomia, ma che oggi ha ancora costi proibitivi. Ecco, mentre tutto questo si sta evolvendo in tali direzioni, vediamo che forse potrebbe riprendere il gioco degli M&A. Sì, tra l'altro questa è una delle ragioni portanti per una ripresa degli M&A, perché le cose che ho appena citato sono cose molto costose da realizzare. Non è un caso se queste cose, che tra l'altro sono quasi tutte collegate anche alla nuova economia, alla nuova new economy e alla digitalizzazione, non è un caso se colossi del tipo Google e Apple si stanno affacciando in maniera non così timida a questo settore. Quindi, anche perché sono colossi che hanno un sacco di soldi. Certo, stiamo parlando di 180 billion nel caso, 190 billion di miliardi di dollari di disponibilità nel caso di Apple, e un po' meno, ma grande profittabilità. Google. Però Apple è più realistico fare le macchinette elettriche che vogliono fare loro, invece la Google Car senza conducente sembra un po' più una scommessa più azzardata. Sicuramente più di lungo termine e sicuramente anche in maniera progressiva, quindi quando parliamo dell'auto autonoma è un punto di arrivo a cui completamente non credo arriveremo veramente mai, perché arriveremo a un punto in cui diventa ineconomica, mentre mi aspetto che progressivamente, come già succede, ci siano dei radar adattativi che frenano la macchina in caso di ostacolo davanti, ci saranno tutta una serie di ausili alla guida, fino ad arrivare a delle corsie privilegiate nelle autostrade, in cui io arrivo in autostrada, metto il pilota automatico e la macchina viaggerà a 150 all'ora nella corsia dedicata, come anche mi aspetto che ci sarà una serie di aree, diciamo, in cui l'auto autonoma potrà funzionare. L'auto autonoma in tutte le condizioni, in particolare nelle aree metropolitane congestionate come New York, Roma, Milano, mi aspetto che sarà ancora un sogno. È certo, come l'auto volante. Esatto, siamo a questo, credo che sia molto vicina all'autovolante dal punto di vista della fattibilità. Ecco, tornando agli M&A, alla domanda, il driver di FCA è che non ha soldi in cassa, banalmente. Visto che prima parlavamo di Apple e di Google che hanno 200 miliardi di liquidità, Marchionne, l'FCA, quanto mi risulta, sta a meno 6. Beh, no, è in termini di debito netto, ma, sì. Ma i soldi in cassa anche l'FCA li ha, è più indebitata di altre case automobilistiche, ma il problema che ha sollevato Marchionne è un problema molto ben conosciuto nel mondo dell'auto ed è esacerbato dagli investimenti che sono richiesti oggi per le tecnologie a cui accennavo precedentemente. Stiamo parlando di centinaia e centinaia di miliardi di dollari che devono essere investiti per arrivare a completare per tutte le auto che oggi sono in commercio questo tipo di trasformazione. Quindi nessuno potrà permettere di farsi in casa da solo queste cose, quindi ci saranno alleanze come già ci sono tra i produttori. E quello che dice Sergio Marchionne è se veramente vogliamo affrontare questa cosa alla radice e finalmente ripagare il costo del capitale per i nostri azionisti, dobbiamo pensare a fare le fusioni per creare dei colossi che superano l'attuale, diciamo, livello di circa 10 milioni di vetture nel caso di Toyota e Volkswagen. Quante vetture fa invece la FCA? Ne fa circa la metà di questi. 5 milioni? Sì. Ma l'obiettivo di arrivare a 7 a fine piano. Però il tema è soprattutto avere soldi in cassa per le nuove tecnologie, quindi non fare accorpamenti di stabilimenti e sinergie nel senso di taglio di costi esistenti. Assolutamente. Quello che è stato pubblicamente detto da Sergio Marchionne è abbiamo bisogno di ridurre il CAPEX, quindi gli investimenti di capitale. Questa industria è drogata da sovrainvestimenti, di fatto tutta la liquidità che genera la deve reinvestire per sostenere i nuovi modelli e le nuove tecnologie. Dobbiamo ridurre questo. Poi la riduzione dei costi è un miglioramento continuo a cui l'auto è abituata e che continuerà a fare. Beh, in Italia sono stati molto ridotti i costi. Sicuramente sì, ma la FCA, come tutte le altre anche case automobilistiche, ognuna nel suo modo, la Fiat tutto sommato non ha chiuso gli impianti, mentre per esempio altre aziende lo hanno fatto, in particolare in America sono stati chiusi circa 17 impianti dal 2007, in Europa sono stati chiusi in particolare in Belgio e in Germania, in Italia, a parte un impianto di Termini, peraltro molto piccolo, non sono stati chiusi veramente impianti, sono stati ridotti e utilizzata la flessibilità che la legislazione non consentiva. Ecco, però invece tornando a possibile merger tra FCA e General Motors, gli azionisti potrebbero essere sensibili, gli azionisti di General Motors, alle sirene di Marchionne? Sì, certo, potrebbero essere sensibili se verrà messo in maniera pubblica un piano che crea valore, gli azionisti, in particolare gli azionisti più attivi, cioè i fondi, che cercano un ritorno, che sono essenzialmente fondi, sì, e all'interno dei fondi sono quelli più attivi e quelli meno attivi, quelli più attivi sicuramente saranno sensibili e lo guarderanno con attenzione. E lei per la produzione di auto in Italia che futuro vede? Io vedo un futuro concentrato su due essenziali punti. Uno, l'auto, diciamo, sportiva ad alte prestazioni. Abbiamo un centro di eccellenza mondiale che è nella zona fra, diciamo, Modena e Bologna, in cui insistono, ricordo, la Ferrari, adesso l'Alfa Romeo, che non dimentichiamo che è stata la nuova Giulia sviluppata a Modena. E certo. La Maserati stessa. E l'altro? L'altro, le auto, diciamo, di alta gamma. Questo perché diciamo, nell'Europa occidentale in generale i costi sono tali per cui ce lo possiamo permettere in termini di produzione più che di sviluppo soltanto dove esistono dei margini e dei fatturati più elevati. Quindi sparirà la produzione di auto di massa dall'Italia con conseguenze anche sociali significative? Ma di fatto è già sparita. L'auto di massa bassa è quasi inesistente in Italia. Non considero la 500 un'auto di massa perché è un'auto di piccola cilindrata, ma è, diciamo, premium o semi premium. Certo. E quindi questo è già così. Poi abbiamo ci sono le produzioni delle auto di alta gamma, ci sono le produzioni ancora della Y e poca roba. Va bene, senta, il tempo è tiranno, io la ringrazio moltissimo per il suo contributo, è stata una conversazione veramente interessante, spero che sia altrettanto per i nostri ascoltatori. Arrivederci alla prossima intervista.